tre squadre che hanno fatto epoca, sono state l'Ajax di Cruyff, il Milan degli olandesi e il Barcellona di Guardiola, poi di Luis Enrique. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pierluigi. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Saluto ciao. Anche un giornalista storico del nostro panorama, del nostro calcio, che fu il primo a sapere che il Milan era stato venduto a Berlusconi. Per anni, prima firma della Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti. Ciao Alberto. Ciao Carlo, un saluto a Pierluigi, un piacere tornare a parlare con voi. Allora, il 21 di febbraio dell'86, la prima pagina della Gazzetta annunciava: sì, il Milan l'ho preso io. Quello fu il tuo scoop. Come fu? Come accadde? Ma io ho seguito tutta la trattativa da quando Farina ha lasciato il Milan al giorno famoso storico 20 febbraio 1986, in cui ci furono le firme sulle azioni e Berlusconi diventò il proprietario del pacchetto di maggioranza. Seguendo il Milan ho avuto l'occasione, la fortuna, il privilegio di conoscere Berlusconi prima degli altri, e avendo stabilito un buon rapporto con lui e con tutte le persone che stavano intorno a lui, con Adriano Galliani, che allora era uno sconosciuto a livello calcistico, anche se con un'esperienza al Monza, con Fedele Confalonieri, con Giancarlo Foscale, con tutte le persone che sono state vicine a lui, e poco alla volta siamo arrivati alla conclusione. La Gazzetta ha potuto anticipare gli altri di qualche ora ed è stata una grande soddisfazione. Chi te lo disse? Possiamo scoprire, è in prescrizione, possiamo aprire gli archivi di Stato. Le fonti non si rivelano, comunque sono passati 31 anni. C'era un giro di avvocati, di commercialisti, è stato un lavoro pazzesco. Ricordo che Candido Cannavò mi strappava le, allora si usavano le cartelle, i fogli rose con le macchine da scrivere, fa in fretta, mi passava lui il pezzo, li correggeva lui per guadagnare tempo alla sera. E fu un grande lavoro di squadra, però, perché io non ero stato da solo, e un grande lavoro di tutto il giornale che mi ha supportato. Ricordo quella sera del 20 febbraio, poi andai alla champagneria dietro la scala a Milano, c'era Foscale, facevano una festa, non c'era Berlusconi perché era rimasto ad Arcore, e quello fu davvero l'inizio di una grande avventura. Io, sentendo quella bellissima silenzio di prima, mi sono emozionato, commosso, tanta nostalgia, credo che sia il sentimento comune di tutti i tifosi del Milan, ma anche di quelli che non sono tifosi, perché il tempo come sempre dà l'esatta dimensione delle cose, delle persone. Sono convinto che Berlusconi e Galliani saranno molto rimpianti anche da quelli che li hanno contestati negli ultimi anni. Sì, ne sono convinto anch'io. Come immaginate, lo chiedo a tutti e tre, a Pardo, a Capuano e ovviamente a Alberto Cerruti, il Milan invece del futuro, perché oggi credo che i tifosi milanisti siano disorientati, questa è la parola che mi viene. Ma allora, da dove partiamo? Dagli aspetti nazionali o dai sentimenti? Scegliete voi. Dagli aspetti nazionali, io credo che Fassone è uomo intelligente e prudente. Lo scenario che ha disegnato è uno scenario, mi sembra, abbastanza tranquillo. Non ha fatto proclami, ripeto, un po' perché non è uomo di proclami, e questo è anche, secondo me, apprezzabile. E un po' anche perché, secondo me, questo Milan partirà con una campagna acquisti di rafforzamento, ma insomma non credo che ci sia, se ti dovessi dire a sensazione, credo che l'Inter sia più pronta a fare investimenti monster per poter crescere. L'obiettivo del Milan, così ha detto Fassone, è quello di essere fra le prime quattro l'anno prossimo per catturare un posto in Champions League. È un po' l'obiettivo di tutte le prime sette della classifica, insomma, senza alcun dubbio, quindi è abbastanza normale. Penso a un rafforzamento, ma un rafforzamento logico, graduale. Non mi aspetto l'effetto Abramovic, mi aspetto più una gestione alla pallotta, per capirci, con un'attenzione al budget. Dal punto di vista dei sentimenti, devo dire la verità, qui questa è in realtà una redazione dove ci sono un sacco di interisti, ho scoperto a Mediaset è pieno di interisti, però c'erano un paio di ragazzi milanisti del sito, e devo dire che in quel momento lì, poi passa tutto, poi c'è il derby, è la prima vittoria, passa tutto, ma erano veramente molto disorientati, come se veramente un pezzo di Milan fosse sparito per sempre. Ma anche perché è stata una gestione talmente grande. Chi ha meno di 31 anni non si ricorda quello il Milan precedente, cioè non si ricorda Giussi Farina. Fortunatamente. Fortunatamente, no, tra l'altro è curioso notare come l'ultimo derby, domani c'è il derby, l'ultimo derby senza Berlusconi fu un derby a suo modo storico, l'ho visto peraltro, primo di dicembre dell'85, 2-2, gli unici due gol in rosso-nero di Pablito Rossi. Il primo derby di Berlusconi fu, guarda caso, i primi di aprile, se non ricordo male, il 6 di aprile, e finì 1-0, gol di Minaudo, che era all'esordio in Serie A e che oggi abita a Lecco e si occupa di mutui. Ci fermiamo un attimo. Magari ha prestato lui i soldi. Ci fermiamo un attimo per il traffico e poi sentiamo anche appunto le opinioni di Capuano e Pardo su quale futuro immaginano. Convocati. Tutti convocati. Si è aggiunto alla compagnia uno degli indimenticabili del Milan, Demetrio Albertini, che saluto. Ciao Demetrio. Ciao a tutti. Ciao, devo finire il giro di consultazioni, che poi nella seconda mezz'ora del nostro programma parleremo più diffusamente di quello che è successo oggi, di programmi per il futuro, e parleremo ovviamente con gli ascoltatori 800240024. Alberto Cerruti, da quel titolo, sì, il Milan l'ho preso io 21 febbraio 86 a oggi, la storia la sappiamo, quella che verrà come te l'immagini? Beh, intanto, lasciando da parte la nostalgia, bisogna ricordare che Berlusconi ha preso il Milan nell'86 e il Milan ha cominciato a vincere nell'88. Primo scudetto, 15 maggio 88. Il primo campionato intero di Berlusconi, Milan è arrivato quinto. Questo per far capire che ci vuole però mettendo le basi con gli acquisti di Donadoni, di Giovanni Galli, se non ricordo Giovanni male, Galli, Massaro, Galderisi, Bonetti, sì, che fu il primissimo acquisto. Sì. Questo per far capire che ci vuole tempo. Però c'è una grande differenza. Allora Berlusconi suscitava entusiasmo, era un personaggio conosciuto in Italia per le sue attività televisive, imprenditoriali, era chiamato sua emittenza. Questo lì che si è presentato oggi, che mi dicono che non parla neanche un buon cinese, tant'è vero che l'interprete era in grande difficoltà a tradurre il cinese, questo lì è uno che non sa nulla di calcio, che non ha i soldi, che ha i soldi che si è fatto prestare. Quindi il panorama è molto confuso, è molto nebuloso, e questo sinceramente mi lascia molto perplesso, perché Fassone può essere un dirigente bravissimo, però se non c'è una strategia comune, se non ci sono i dirigenti ai posti giusti, e poi i soldi vanno spesi bene, perché non basta avere i soldi. Dybala, tanto giustamente celebrato, è costato 40 milioni. L'Inter con 40 milioni ha preso Joao Mario, che sta in panchina, quindi occorre una strategia. Ecco perché io sinceramente sono molto, non voglio dire pessimista, sono molto perplesso, sono molto curioso. Il tempo dirà, però c'è una differenza enorme tra l'86, quando Berlusconi aveva un programma, aveva dei dirigenti, e oggi invece è tutto molto improvvisato. Quindi capisco il disorientamento dei tifosi. Tra un anno vedremo, perché questi signori fatti prestare anche i soldi. Anche prima, ecco. Sì, beh, certo, tra un anno c'è la prima scadenza. Alberto, io ti ringrazio. Grazie ciao. A voi, buon ciao pomeriggio. Alberto Cerruti. Ciao. A Demetrio Albertini chiedo invece qual è la tua sensazione. Qual è stata la tua sensazione ieri alle 14.04? Credo che tu l'abbia saputo in tempo reale, no Demetrio? Il Milan è passato di mano. Il primo pensiero che hai avuto? No, diciamo un percorso lungo di questa trattativa, e quindi alla fine uno aspettava solo il momento dell'ufficialità di questa situazione. Sarebbe stato veramente imbarazzante più del dovuto se non fosse chiuso, quindi devo dire la verità, qualcuno se l'aspetta. Abbiamo avuto anche il tempo per metabolizzare, per capire quello che si stava passando, il passaggio sinceramente, e doveroso ringraziamento a tutta la dirigenza, a partire dal presidente, per quello che ha fatto, e adesso c'è la curiosità di vedere quello che sarà il futuro del Milan. Quindi sinceramente quello che ho sentito ieri pomeriggio era una cosa aspettata, sì. E quindi metabolizzata. Guarda, io credo che oggi Fassone abbia fatto un'operazione intelligente. Siccome sa che deve remare in salita, perché i due anni che hanno preceduto la giornata del closing sono stati due anni estenuanti per i tifosi del Milan, e sapendo di non poter parlare lui e tantomeno Yongol Lee, toccando le stesse corde di Berlusconi nel 1986, oggi secondo me lui ha fatto l'operazione intelligente di cercare di parlare in maniera chiara, separando bene i temi, separando bene i piani, separando bene gli argomenti e cercando di dare degli obiettivi credibili e raggiungibili, perché questo è quello che oggi può fare il Milan. Io capisco che poi non arrivi al cuore dei tifosi del Milan questa cosa. Questa è una cosa evidente. Però penso anche, e capisco lo scetticismo dei tifosi, penso anche che da oggi si debba voltare pagina e l'operato di Yongol Lee e di Fassone, di chi chiamerà Fassone, vada giudicato per quello che fanno da oggi. Mettendo da parte tante cose. Poi ci sono le partite, ci saranno le vittorie, le sconfitte, cioè, è chiaro. Io sono rimasto, ripeto, sono rimasto colpito dalla reazione stamattina di questi due amici milanisti. Fra l'altro uno, il signor Bonamici, lo conoscete bene perché ha lavorato anche da noi a Radio 24, nel senso che veramente è la sensazione che se sia andato qualcosa di clamoroso. In questo forse la transizione dell'Inter è stata, col fatto che è stata graduale, è stata un po' diversa. Beh, anche quella del Milan è stata fin troppo graduale. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Demetrio, perché poi lui è vicino ai tifosi. Cioè, il vero Milan non c'è più da 4-5 anni. Cioè, questa cosa qui, sì, i tifosi del Milan l'hanno già metabolizzata. Lo so, però è qualcosa di diverso. Io continuo a pensare che la parola giusta oggi sia quella che sottolinea Pardo, disorientamento, no, Demetrio? Ma sì e no, nel senso che c'è l'aspettativa, quando succede una cosa del genere si chiude una storia che ci divide un po', no, per quello che siamo stati e la speranza di quello che saremo, con di mezzo 3-4 anni di cuscinetto dove il tifoso sicuramente non era contento della gestione precedente, perché questo va detto. Quindi io credo che da una parte si debba essere fiducia, speranza, chiamala come vuoi, nel poter lavorare. Ho detto bene Pardo, inizieranno poi il tifoso inizierà la campagna acquisti, e quindi misurerà la campagna acquisti per capire cosa sarà, si misurerà sul per quanto riguarda le vittorie e le sconfitte, perché la differenza tra quello che è stato l'acquisto di Berlusconi 31 anni fa era che il Milan non arrivava da anni di vittorie, era questo Milan. No. Oggi l'asticella, l'augurio, l'auspicio, il desiderio, anche per quello che si è anche dichiarato, no? Che bisogna ritornare velocemente a essere ai massimi livelli, quello che questi tifosi del Milan li hanno vissuti i massimi livelli, no? Il essere il top club mondiale l'ha vissuto, e quindi si spera di potersi affrontare. Il problema è che nello sport tu puoi lavorare bene come dirigente e magari i risultati non arrivano velocemente, come tutti ci aspettiamo. Sì, e poi bisogna anche avere i denari in questo mondo del calcio, che è così cambiato. Bisogna anche sapere che è cambiato il contesto intorno. È cambiato rispetto tutto. A 30 anni fa. È cambiato il contesto intorno. È un altro mondo, un altro universo. Ed è più lungo e più difficile risalire quella china. Posso approfittare di Demetrio Albertini? Sì, puoi approfittare di Demetrio Albertini, però dopo aver sentito questa prima battuta di Fassone, che potrebbe riguardarlo. La bandiera, allora, sarà importante che ci sia al nostro fianco anche qualche esponente del club che incarni proprio i colori rossoneri e il DNA di questo club, che ci può aiutare per mille ragioni, non soltanto per ragioni squisitamente tecniche. Non voglio dimenticare che ce ne sono all'interno del club, quindi un'altra cosa che farò con grandissima rapidità sarà fare una lunga chiacchierata con Franco Baresi, che non ho voluto sentire in questi mesi, con Filippo Galli, comunque con i ragazzi che sono il Milan e che rappresentano il Milan e che già ci sono e che sarà mia intenzione tenere in assoluta considerazione. Obiettivo: arrivare all'inizio della stagione 17-18 con l'organizzazione nel limite del possibile messa a punto. Che vuol dire anche con quel profilo, col DNA del, così ha detto oggi Fassone. Allora, io volevo chiedere a Demetrio Albertini, so come la pensa, come l'ha pensata in questi mesi, se oggi che tutto diventa operativo quella porta per lui si può aprire. Non dico riaprire perché so perché in realtà non si è mai aperta quando se ne è parlato e scritto. Soprattutto se gli potrebbe interessare, perché potrebbe anche non interessare a Demetrio. Perché serve un personaggio così, proprio per evitare il disorientamento. Ci siamo parlati proprio su questa radio con voi più volte, in altre occasioni, anche in altre situazioni, l'ho sempre detto, nel senso... il sogno, ma non per adesso, l'ho detto anche precedentemente, quindi continua a essere molto lineare quello che è il mio percorso. Io continuo a dire che è sempre stato un sogno quello di ritornare al Milan dopo che sono andato via nel 2003, quindi rimane sempre un sogno, ma so anche che non tutti i sogni si avverano, quindi non è questo il discorso. La mia situazione l'ho ribadita più volte, credo che con Fassone lui abbia il mio numero di telefono e io il suo, quindi perché anche come dirigenti ci siamo incrociati parecchie volte. Non è mai stato, è lui che deve decidere e capire qualsiasi chiacchierata che deve fare, con chi la deve fare, per il bene del Milan, per quello che pensa e per la sinergia. Quindi lo ribadisco, non è alla radio che uno deve parlare di questa situazione, sono dirigente, con i se, con i ma, diventa difficile, con tutto il rispetto, no, per tutti. Sì, cioè, chiaramente. Grazie Demetrio. Grazie a voi. Tutto molto chiaro. Pierluigi Pardo, il Milan ha bisogno di una figura di questo tipo? Ma sicuramente, perché Fassone è molto bravo, credo che sia abbastanza indiscutibile, chi lo conosce lo sa, insomma ha lavorato bene, ha lavorato in contesti molto diversi, ha un profilo particolarmente evoluto per la figura che deve rappresentare, però è ovvio che agli occhi dei tifosi, e sappiamo che questo non è mai un business banale, ma è qualcosa che confina con la passione prima di tutto dei tifosi, quindi è molto importante avere questo legame profondo, e nel caso di Fassone questo legame è tutto da costruire, non c'è. Ma io ho sentito parlare oggi in conferenza stampa, mi è sembrato consapevole di questa cosa, proprio la frase che abbiamo sentito prima sulle figure storiche del Milan è una frase molto importante. Sì, però ci vuole una figura storica che sappia già fare questo mestiere di un certo tipo, ci vuole chiarezza, e poi ripeto, domani c'è una partita che sembra fatta apposta per finirla con le chiacchiere e ritornare con i sentimenti, bisogna vedere come andrà a finire, ovviamente, sì, che non è un dettaglio, però insomma è ovvio che domani se le cose andassero in un certo modo i tifosi del Milan già sarebbero molto felici e magari si affezionerebbero un filo ti di più. Ti ripeto, primo derby di Berlusconi 0-1, gol di Minaudo, ragazzo di Mazzara del Vallo, che oggi vive in provincia di Lecco e si occupa di mutui. Lo ripeto, 800240024. Dopo questo breve time out andremo sulle parole di Fassone e sullo scenario del futuro del Milan, neanche sui dettagli dell'operazione, ma soprattutto vogliamo sentire i tifosi. 800240024. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. qui al GR delle 15 sentirete la voce mia, quella di Giovanni Capuano, quella di Pierluigi Pardo, quella di Fassone che ha parlato stamattina, quella degli ascoltatori. Poi dopo il GR delle 15 invece arriva il Racing Team di Radio 24 e si parlerà di motori come ogni venerdì. Cominciamo dagli ascoltatori, va, perché mi sa che le opinioni sono un po' divise. C'è ad esempio chi mi scrive un WhatsApp: lo scetticismo lo vedete solo voi, i tifosi sono entusiasti. Il ridicoli riferito a noi non so perché facciamo ridere, ma sì, ma no, ma ridicoli io per carità, se i tifosi sono contenti sono contento per loro, e credo, e l'ho detto mille volte, lo ribadisco, io credo che i tifosi del Milan debbano essere nel medio periodo strasicuri, perché il Milan è una corazzata del calcio mondiale, ha una storia, una tradizione enorme, ha un brand, come dice Perinazzo, quelli che fanno business, si occupano di economia, enorme, ha sicuramente il futuro dalla sua parte, ha una massa critica di tifosi gigantesca in Italia e nel mondo, quindi io sul medio periodo sono straconvinto che Milan sarà una grande protagonista. Io non lo so. Ma non c'è dubbio, perché Milan, Real Madrid, Manchester United, Juve, Inter, sì, sono tutte società che... Lo so, però come diceva il bibitaro del Palalido quando ero piccolo... Parlo di medio periodo, nel medio periodo io non riesco a leggere cosa potrà succedere. È diventato troppo globale perché grandi società possano sparire. Se anche le grandi società o essere destinate a un destino grigio, se anche vanno in difficoltà i grandi club, il Real Madrid, Barcellona e il Milan è fra questi, arriverà qualcuno che se lo compra e ci mette i soldi, perché ormai il mercato è mondiale e in questo mercato mondiale ci sono una quindicina di club che hanno un valore assoluto enorme, quindi poi puoi sbagliare un allenatore, puoi sbagliare una campagna acquisti, puoi avere un presidente meno munifico rispetto ad altri, ma nel medio periodo le cose si aggiustano, quindi non ci sono dubbi. Detto questo, io penso che questo sia un progetto interessante, non ho nessun motivo per pensare, questi comunque il Milan l'hanno pagato tanto, quindi nessuno credo possa mettere in discussione il fatto che l'investimento c'è stato, e forse dobbiamo anche rivedere, no, tutta una serie di dubbi legittimi, per carità, che abbiamo avuto di sospetti in queste settimane, no? Ma Berlusconi è stato un tormentone, cioè. Oggi Fassone ha detto un paio di cose, poi senza dire nomi e cognomi, ma il riferimento ad esempio all'Inter era evidente. Ha detto intanto che il Milan è stato valutato molto più di altre operazioni simili che sono state fatte in questi anni, e quindi le operazioni che sono state fatte in questi anni sono l'Inter e la Roma, e alla fine oggi il Milan costa ai cinesi più di 800 milioni di euro, perché ne hanno già messi 90 per ripianare, diciamo, il primo bilancio. E la seconda cosa, a proposito dei debiti, detto che oggi ci è stato spiegato in tutte le lingue che bisogna distinguere tra i debiti che si è preso lì per pagare il Milan e quelli che sono in carico al Milan, che effettivamente sono una quota marginale, il Milan da questo punto di vista ha una situazione molto migliore di altri club italiani, anche qui senza fare i nomi. E lui ha detto: è una follia pensare che un'operazione di questo genere, che oramai avvicina il miliardo di euro, possa essere fatto senza ricorrere a finanziamenti. E la sfida è tutta lì. Ed è la sfida su cui misuriamo i cinesi da qui in poi. E io ho trovato invece molto intelligente, poi magari lo sentiremo, che l'obiettivo numero uno che è stato posto è un obiettivo credibile, raggiungibile, cioè è la Champions. Lo sentiamo tra un istante, però prima voglio gli ascoltatori. Maurizio, buongiorno. Dica. Come avete cominciato la puntata con Milan Steaua di Barcellona, volevo portare la mia piccola testimonianza. Io ero uno dei fortunati che la tirano. E quindi praticamente mi sono visto 6 finali del Coppa dei Campioni, 3 vinte e 3 perse, quindi sono più che contento della gestione di Berlusconi, anzi è come si fa a non esserlo. Auguro ai tifosi dell'Inter e della Juve di provare le stesse emozioni che abbiamo provato noi in questi 30 anni, quindi. Grazie, sì. Silvio. Sì, ma io questo lo capisco. Beh, quelli della Juventus almeno sul fronte interno di soddisfazioni se ne sono levate alcune, ogni tanto qualche scudetto lo vinco, qualcuno l'ha vinto, e sul fronte internazionale magari quest'anno può essere quello buono. Sentiamo anche Cosimo. Sì, eccomi qua, ciao, grazie per la convocazione. Ciao. Mi ha anticipato il quello di sì, prima. Ma io oggi lo stato d'animo qual è? Ma abbastanza neutrale per quello che mi riguarda. Infatti quello che volevo dire era questo: anch'io ero a Barcellona 30 anni fa, anch'io con la mia tempra, mio cognato e due amici, alle 4 del mattino siamo partiti da San Donato e siamo andati a fare una cosa bellissima, anche perché poi avevamo segato, scusa il termine, il Real Madrid, mm-hmm. e quindi avevamo evitato che a Barcellona ci fosse il Real Madrid in finale di Coppa dei Campioni, quindi tutta la città era con noi. Una cosa bellissima, emozionantissima. Dopo 30 anni sono cambiati un po' anche l'approccio al sentimento della squadra. Milan tutta la vita, sono neutrale, aspetto, cerco di capire. L'operazione mi sembra un po' strana, Il fatto del fondo Elliott non mi lascia un po' così, anche perché mi occupo di finanziario ed è un'operazione che mi lascia un pochino così, perché poi quei soldi e quei tanti... Più o meno la stessa cosa ha fatto l'Inter con Goldman Sachs, no? Correggimi se sbaglio. Sì, ma anche con Suning, anche con Toira, che prestano poi i soldi alla propria società. Il Milan prende la parte di debito che è stata fatta con Elliott, che riguarda il Milan, che sono poco più di 100 milioni, 120 milioni, è fatta con gli stessi tassi con cui prende i soldi l'Inter, ha preso i soldi l'Inter da Suning e da Toir, uh-huh. e un po' più di quello a cui ha prestato Exor i soldi alla Juve in un periodo, sì, un paio di anni fa, leggermente inferiore, però credo siano quelli tassi di mercato, però adesso io non faccio quello di lavoro. A me pare che oggi con abbastanza chiarezza Fassone abbia provato a mettere qualche paletto anche per far capire che insomma da oggi si deve lavorare e si deve essere giudicati su quello e non inseguendo l'intreccio che è stato il tormentone per un anno. Allora, tra poco lo sentiamo. A me è piaciuto Fassone, eh? Sì, a me molto. Bello pulito. Molto onesto, molto concreto. Molto chiaro. Mi è piaciuto molto il passaggio su Barbara Berlusconi e su Galliani, perché chiaramente si è parlato molto di Berlusconi in queste ore, però quella sottolineatura lì sul fatto che Barbara Berlusconi e Galliani avrebbero, cito a memoria, potuto avere un atteggiamento molto diverso nei confronti di Fassone in questi mesi, invece sono stati, il succo è un po' questo, sono stati estremamente collaborativi e non hanno avuto nessuna forma di gelosia. Ecco, questo era un passaggio non banale secondo me della conferenza di oggi. È chiaro che quello diceva Cerruti prima, Berlusconi arrivò con l'elicottero, come simbolo di un'Italia che stava crescendo, di un rampantismo e di una capacità imprenditoriale, di una capacità di essere visionario, di pensare a un futuro, e l'ha realizzato, perché poi voglio dire in questi 30 anni l'ha realizzato in Italia. Pierluigi, arrivò Berlusconi dopo un Milan retrocesso due volte, una per le scommesse, certo, l'altra, certo, sul campo, Milan di va da memoria, Wilkins e Atlea, degli Omoro, di Vinicio Verza, un Milan da sesto posto, settimo posto. C'ha scritto la figlia di Giussi Farina, immagino sia lei, dicendo: non parlate male di mio padre, prima chiedetevi quanto pagò Berlusconi il Milan nel 1986. Pochissimo. Secondo me non bisogna parlare male di Giussi Farina, bisogna dire che Berlusconi prese il Milan in una condizione particolare, che è profondamente diversa da quella di oggi, eppure il Milan degli ultimi 4 anni insomma è un Milan che si è ridimensionato. Anni 31, il mondo è successe tre rivoluzioni, quattro rivoluzioni nel mondo in questo arco di tempo. Prima del traffico sentiamo un Fassone sull'obiettivo del Milan che verrà. Siamo il Milan, quindi non abbiamo neanche la possibilità di dire piano piano, vediamo che succede. L'idea che abbiamo è quella di ritornare il prima possibile in Champions League. Ormai è inutile nascondercelo che la partecipazione alla Champions League in termini di visibilità, di risorse economiche, di prestigio è la platea a cui un club come il Milan non può rinunciare. La nostra assenza da questa competizione è ormai troppo lunga. Abbiamo un piccolo assist, un piccolo assist e vantaggio che ci è stato dato dalla UEFA lo scorso settembre con la decisione che l'Italia avrà 4 posizioni garantite all'interno della Champions a partire dalla stagione 18-19, e quindi senza nascondersi l'obiettivo è quello che nel 18-19 il Milan partecipi alla Champions League. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Convocati. E chiaro che, amici miei, ci sono questioni che al Milan vanno risolte, non dico oggi, ma non più tardi di dopodomani. Una è questa. Da parte nostra, da parte del presidente, da parte della nuova proprietà, eccetera, c'è tutta la considerazione che Gigio Donnarumma merita, quindi da parte nostra c'è certamente la volontà di risolvere in tempi brevi questo punto, di fare di Gigio una colonna del Milan del futuro. Sappiamo che in mezzo tra il desiderio di fare delle cose e la realtà ci sono dei contratti, ci sono delle discussioni che certamente avremo, ed è sicuramente una nostra priorità che affronteremo con il massimo dell'impegno. E beh, non si tratta del rinnovo del contratto di un giocatore, si tratta a questo punto di qualcosa di simbolico. Si tratta del biglietto da visita, esatto, con cui si presentano. Esatto. Donnarumma, esatto, deve essere il portiere, esatto, del Milan del futuro, almeno per un po' di stagioni, poi è un bambino Donnarumma. Poi si vedrà. Da qui ai prossimi 20 anni chi lo sa che cosa fa, però il Milan non può perdere questa cosa. Come mi pare di aver capito, non può perdere anche un altro paio di scommesse che è in agenda legate a dei rinnovi. Uno è De Sciglio e l'altro è Suso, sì, che scade più avanti, scade credo nel 2019, però oggi Fassone un paio di volte l'ha nominato, perché rappresentano comunque i lati positivi di questa stagione insieme a tanti altri. De Ulofeo sarà più complicato perché è un intreccio di mercato, però queste cose sono nell'agenda dei primi 100 giorni del governo Fassone. Pierluigi Pa, guardo, io immagino Mino Raiola che farà i salti alti così, botta di culo, eh? Proprio in questo momento devono accontentarlo. Beh sì, sicuramente, insomma, però non è che lo scenario, francamente, cioè, gli ultimi anni della gestione di Berlusconi e di Galliani sono stati sicuramente gli anni peggiori, e quindi un po' di pressione c'era già da prima. Lo sappiamo bene, insomma, io ieri ho chiesto a Luca Serafini se in qualche modo fosse pentito, comunque se alla luce di quello che stava succedendo, se non ci sia stato un eccesso di critica negli ultimi anni della gestione del Milan. Lui ha risposto, secondo me, in maniera giusta, sul fatto che probabilmente è mancata la comunicazione precisa, che bisognava puntare prima sui giovani. Però rimane il fatto che diciamo mille volte che appunto il calcio è liquido e ci si dimentica. E oggi la mia sensazione è che l'umore di tanti tifosi che magari fino a ieri contestavano gli ultimi anni della gestione del Milan sia molto diverso, perché adesso improvvisamente si è tornati a ragionare sulla storia e non sulla cronaca, e la, sì, storia dice che Berlusconi è stato il grande presidente, numeri alla mano, della storia del calcio italiano. C'è poco da discutere su questo. Poi ha avuto sicuramente qualche anno difficile nelle ultime stagioni, e probabilmente questo rinnovamento sarà utile. La pressione su Donnarumma, sul rinnovo di Donnarumma, c'era pure prima, quindi sicuramente Raiola ha un contesto favorevole, però insomma sì, certo, non possono cominciare perdendo, non possono cominciare perdendo il Donnarumma, il giocatore simbolo, questo è chiaro. Raffaele, buongiorno. Sì, salve. Dica. No, io volevo intervenire in merito al presidente. È stato un grandissimo presidente, quello è in dubbio, ecco. Però oltre che un grandissimo presidente, secondo me ha messo veramente la passione nella società, nel Milan, e proprio nel portare avanti l'obiettivo che lui ha sempre avuto, vincere. Ora, questa nuova proprietà, oltre che chiaramente i soldi, e spero che le abbiano, dubbio, penso che le abbiano, ma l'avranno la passione loro? Io faccio riferimento a Paris Saint-Germain, a, sì, Manchester City, tutti grandi club con grandi capitali. Qui, però posso, non rispondere, qui posso rispondere parafrasando Pardo, anzi lasciando parlare Pardo. Non è più il tempo del presidente Magnate, dei Berlusconi, dei Moratti, dei Sensi, dei Ferlaino, di quelli che agivano di cuore. Anche qui tocca ripeterlo, per Luigi, dillo tu. Sì, no, il caso di Manchester City e Paris Saint-Germain è un caso più tecnico che altro, e in ogni caso io credo che i tifosi del Paris Saint-Germain e del Manchester City, vista la storia precedente che possiamo avuto... aggiungere il Chelsea, possiamo aggiungere lo United. No, però aspetta, perché Manchester City e Paris Saint-Germain, che sono stati due esempi citati dall'ascoltatore, sicuramente sono due società alle quali è mancato il salto di qualità a livello europeo, però stanno sicuramente meglio adesso rispetto a 15 anni fa, hanno cominciato a vincere i campionati in patria. Il Manchester United di Glazer ha vinto la Champions League, americano contestatissimo, cioè non è che per forza, cioè non è un per il presidente che viene da fuori convince, anzi la storia del calcio dice in questi ultimi anni che aumentano le probabilità, perché se arriva la gente da fuori con un sacco di soldi sicuramente possono aumentare. Poi l'ascoltatore ha ragione, esistono dei valori immateriali nel calcio che sono importanti. Se tu non riesci a fidelizzare, se non riesci, ma per questo però Fassone oggi l'ha detto, quando Fassone ti dice che c'è bisogno di bandiere del Milan, in pratica fa capire che assisteremo probabilmente a un casting per trovare una figura che possa essere utile, lui dice dal punto di vista tecnico e non solo, e questo non solo è appartenenza, identità, se vuoi anche una captatio benevolenza nei confronti del pubblico, perché c'è pure questo elemento, no? Ma questo, voglio dire, questo ci sta. Lo Tito ha messo Peruzzi a Roma e magicamente le cose sono andate meglio. Ma non è stato bravo, è stato bravo, ha capito evidentemente che lui non riusciva ad avere un certo tipo di presa sul pubblico, una bandiera, oltretutto un grande uomo di calcio come Peruzzi, questo tipo di rapporto riesce magari a garantirlo di più. Quindi è tutto da vedere ed è tutto da scrivere. La sensazione oggi, venerdì santo di quest'anno 2017, è che sia un progetto che parte non fra squilli di tromba, ma parte con serietà e con sobrietà. E potrebbe anche essere una buona notizia, perché poi il mondo del calcio spesso è stato anche popolato da saltroni che urlavano. Ragazzi, abbiamo ancora due minuti. Io non posso parlare, non riesco a parlare con Giovanni da Brescia perché è il momento topico della settimana. Sì, però abbiamo pareggiato, la partita più difficile, che era quella per la salvezza, lascia stare. Allora, state giocando veramente in maniera estremamente difensiva, più tre, e sono due settimane che pareggiate, state giocando, tu stai facendo una melina orrenda. Allora, andiamo di corsa, parte Capuano con i pronostici da Roma-Atalanta. Roma-Atalanta, beh, uno. Uno. Inter Milan 1. Ah, uno anche per me. Cagliari Chievo X. E rischio. finisce il tempo, pardon. Ha detto X. No, non l'ha detto. Sì, ha detto X. Fiorentina Empoli 1. Uno. Cosa devo dire? Lazio Genoa Lazio. Genoa-Lazio X 2. Palermo-Bologna 2. X. Pescara-Juventus. Vabbè, dai, Pescara-Juve 2. 2. Torino-Crotone 1. X. Azz. Ma io penso che il Crotone si salvi. Capuano deve recuperare. Io penso che il Crotone si salvi. Deve rischiare. Stavo già per 2. Milotane che dice? Torino-Crotone? 1. No, 2 per rendere tutto più disteso. Sassuolo-Sampdoria 1. 1. Napoli-Udinese per chiudere 1-1. Ah, ciao ragazzi. Ragazzi, un po' di differenza c'è. Vediamo. Tu devi attaccare, lui deve difendere. Se è a più 3. Sì, Sassuolo-Sampdoria. Ho ripetuto quello che ha detto Capuano senza neanche poter essere pure Manchester City. No, perché è chiaro, vincerò di una, dai. Perché becco Palermo-Bologna, becco Genoa-Lazio e forse becca lui Torino-Crotone. Vedo già il risultato. 7-6. Ciao Pierluigi. Sentiamo. Buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua anche a Giovanni Capuano. Dopo il GR arriva il Racing Team di Radio 24. Domenica c'è il Qatar per quanto riguarda le moto e ci sono ovviamente tante cose da dire. Avremo un grande ospite per quanto riguarda le auto domenica, e le moto avremo tante cose da dire con un grande ospite. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Devo stare seduto in panchina a guardare. O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Tutti convocati. Racing Team. Beh ragazzi, perdonatemi, ma questo è uno dei miei momenti preferiti di tutta la settimana, di tutti i convocati. Questa mezz'ora ormai cult anche tra gli ascoltatori, sulle corse, sulle gare, sulla Formula 1 e sul moto mondiale. su Leo Turrini e la sua Ferrari con Roberto Ungaro, che oggi è qui con me. Ciao Carlo, un saluto. Ciao a tutti. Ciao. Leo, nostro Caronte. Scusatemi, sono fermo in coda sulla Pero Corbano. Dietro a Kimi Raikkonen, no, qui. Qui ci sono orde di cinesi che stanno puntando su San Siro, perché domani si gioca il primo derby cinese della storia sotto la Madonnina tra l'Inter e il Milan. E allora cosa volete che vi dica? Si sono tutti riversati sul bande di cinesi. Mi viene in mente il bande di finocchi armati. Sto citando uno dei capolavori, amici miei. Nell'uovo di Pasqua troviamo. No, pensavo fossi in coda dietro a Raikkonen che ha fritto la macchina. Beh, sai come si suol dire, Alonso ha annunciato che va a correre la 500 miglia di Indianapolis. Raikkonen è stato colto da un raptus di invidia, ha immediatamente spento la power unit della rossa, riservandosi a sua volta di puntare sulla 24 ore di Daytona, così faremo contenti tutti i detrattori del nonnino finnico, che non vedono l'ora, dopo due gare, di poter dire che la Ferrari deve cambiare il secondo pilota, che è qui, che là, che su, che so giù. Che sei sul punto di fondare un partito, ma io sto con te, ti faccio da porta, da porta borse, poi ne parliamo nel biondino. D'altra parte, sei il presidente del Palermo, ha fondato cos'è il partito del limoniamo di più, non mi ricordo più. Ma io su queste cose ormai sono fuori concorso, non posso partecipare. No, ma noi fondiamo mica quel partito lì, fondiamo quello ma dei... Ma tu sei lì con l'amichetto di Belen, di Iannone, mi sa che voi siete gente un po' pericolosa sulle moto. Noi siamo no, Roberto Ungaro è un pilota. Scusami, Roberto Ungaro è un pilota vero, non è pericoloso per niente, perché in moto ci sa andare come pochi, soprattutto quando ha un fuoristrada sotto il sederino, no Roberto? Abbe il tassello. Il tassello. Cosa mi dici del mondiale di cross di quest'anno? Tra l'altro, ragazzi, questo weekend è Arco di Trento, ricordiamo, perché Tonino c'è il mondiale, se la gioca, è dura, perché nel cross è molto molto dura. Io spero, è una situazione analoga a Vale, anche lui è avviato verso il tramonto, ha più speranze Tony Cairoli di prendere ancora un mondiale. È che nel cross purtroppo c'è un grande punto di domanda, Carlo, che è gli infortuni, ci si fa male frequentemente perché le moto sono state potentissime e quindi è dietro l'angolo l'infortunio e condiziona molto la stagione. Quante volte sei spaccato tu? Non si contano i tatuaggi dei motociclisti, sono le fratture e le cicatrici. È inutile fare tatuaggi, io ce li ho purtroppo dentro sotto pelle. Io ho entrambe le cose. Vabbè. Amiamo lo stesso la moto. È parte di noi, cioè, sì. Per Leo Turrini è la Ferrari, per noi è motociclisti dentro. Toglietemi, non so, un pezzo di corpo, ma non toglietemi una moto, anche se cado e mi spacco tutto, Leo. Tu sai come sono fatto. Però voi avete una grande passione, riuscite a esprimerla sulle strade, è bello questo, voglio dire. Capisce da come parlate, non di Belen ma di Iannone, che voi avete veramente una grandissima passione, un entusiasmo per il brivido della spalla. Io vi invidio moltissimo, qui fermo sulla Pero Corbaro con tutti questi cinesi che sventolano bandierine rosso-nere e nero-azzurre. Chi l'avrebbe mai detto, caro gente? Vedi da dove? Senti, il primo derby... la globalizzazione, ecco. La famosa globalizzazione, Turrini, la signora globalizzazione. Beh, ovviamente ascoltatori tutti invitati, 800 24 00 24 è il numero verde. Vi ricordo, ne approfitto per ricordare che venerdì prossimo saremo nel paradiso delle radio qui a Milano in piazza Gae Aulenti. Trasmetteremo dal palco con il pubblico, so che Roberto Ungaro viene. Tu, Leo, sei da queste parti venerdì prossimo, ma penso che sarò ancora bloccato qui sulla Pero Corbaro. Perché sì. Poi i cinesi devono defluire, sì, ma devono tornare verso Nanchino. Ti mando l'elicottero di Berlusconi a prenderti. Ah, quello famoso dell'86. Quello famoso, secondo me andrebbe veramente messo in qualche museo, perché è un pezzo di storia. Adesso, a parte le battute, insomma, devo dire che si è esaurito un ciclo ultra trentennale che tutti, milanisti o meno, abbiamo vissuto in prima persona. Guarda, era molto bello oggi il pezzo del nostro amico Grabellini sulla prima pagina del Corriere, no? Sì. dove finisce dicendo ma in realtà anche i non milanisti sono dispiaciuti di questa soluzione, perché col Milan di Berlusconi se ne va la nostra giovinezza, per beh, chi beh. Ha la nostra età, per beh, chi ma ha ragazzi, la nostra... ma sono 31 anni, o uno che oggi ha 31 anni ha famiglia, ha lavoro, almeno si spera, no, si spera anche, anche Raikkonen era cresciuto nel mito del Milan, lui guidava già, mi ricordo una volta eravamo io quanti anni ha Raikkonen? Raikkonen del 79, quindi aveva 10 anni quando il Milan vinse la prima Coppa dei Campioni. Ma una volta appunto eravamo io, Kimi Raikkonen, Tanzi Nuvolari, Enzo Ferrari, così ci dicevamo: ma pensa quando un giorno ci sarà un derby tutto cinese a Milano, no? Immaginavamo il futuro, e il futuro però anche questa gara in Bahrain, perché poi noi stiamo divagando qui, voglio dire, sono iniziate le prove libere nel deserto, al di là del problema. E c'è davanti la rossa di Vettel. Allora la nostra amica Gina sembra per ora adattarsi anche alle altissime temperature del deserto. Tra le dune la Gina rossa si mostra in tutto il suo splendore. Se ci fossero Belen e Iannone parlerei di topless, perché è veramente partita benissimo, però ricordiamoci che era proprio la metà della prima sessione delle prove libere, insomma ancora presto per comprendere. Sembrerebbe però che un nuovo duello Vettel-Hamilton sia, diciamo così, l'ipotesi più ragionevole per quello che si è potuto intuire nei primi 90 minuti. Allora, io vorrei tornare per un attimo, prima di agganciare un grande ospite del mondo del motociclismo, penso che tu lo conosca, Leo, perché conosci praticamente tutti, non mi viene in mente una persona importante nello sport che tu non conosca. Comunque voglio farti sentire, voglio tornare su quell'argomento di Alonso e su quella sua scelta di andare a di saltare Monte Carlo per andare ad Indianapolis. Sentiamo Alonso. Quando chiudi la visiera vai a tutta, anche se vado su un go-kart con i bimbi della scuola in Spagna e chiudo la visiera, cerco di batterli, anche se c'è da buttarli sull'erba, li metto lì, no? Quindi la motivazione non mancherà mai, però certo che un nuovo stimolo, una nuova sfida, imparare un stile di guida completamente diverso che sicuramente ti fa crescere come pilota e ci rinforza come squadra. Beh, sicuramente tutti vogliamo dimostrare quanto ci prepariamo, quanto amiamo le gare, quanto ci piace competere, quindi quando non hai quella possibilità ogni domenica, quando sei troppo indietro, quando ci sono problemi di affidabilità, non finisci le gare, tutto, sicuramente aprire una finestra nuova e provare o tentare una nuova categoria è sempre interessante. Io ragazzi voglio sapere come la pensate su questo punto, sia Leo Turrini che Roberto Ungaro. Ma guarda, allora innanzitutto bisogna rendere merito al coraggio di Fernando, perché andare a correre sugli ovali non avendo mai fatto esperienze specifiche vuol dire che erano proprio pieni maroni. Beh no, questo ci arriviamo dopo, ma volevo dire che lui comunque ha un'audacia che è fuori discussione, perché le corse americane, per dire, Nelson Piquet ci si fece molto male quando provò. Non è che tutti ci hanno vinto come Emerson Fittipaldi o il nostro carissimo leggendario Alex Zanardi. Quindi si prende un bel rischio e io per questo lo ammiro. Poi è evidente che lui arriva a questa scelta così suggestiva per disperazione, perché ha a disposizione un catorcio invece di una vettura di Formula 1 per il terzo anno consecutivo. Ne parlavamo anche con Briatore la settimana scorsa. Sì. È veramente uno scempio che il talento di Fernando sia mortificato in questo modo, perché è ovvio che se solo la McLaren fosse stata, non ti dico la Mercedes di Hamilton e nemmeno la rossa, la Gina di Vettel, ma anche solo la Red Bull che aveva Verstappen in Cina, Alonso non sarebbe mai passato per l'anticamera di cervello di saltare Monte Carlo per andare nel catino dell'Indiana. Quindi c'è un aspetto romantico molto forte e c'è però anche un elemento malinconico che è molto triste. Come la pensi, Roberto? Allora, una riflessione su quanto ha detto Alonso: è verissimo, quando un pilota abbassa la visiera, anche se è alla gara dell'asilo, lui ci dà tutto. Questo è proprio l'animo del pilota, che è competitivo dentro. E l'altro aspetto è quello che Leo dice, è il coraggio di Fernando, perché un pilota, se non è sicuro di essere competitivo, non va a fare niente, piuttosto rimane a casa. Chiedete oggi a Valentino di andare a correre l'8 ore di Suzuka, rinuncerebbe per qualsiasi montepremi, qualsiasi ingaggio, perché sa che è una gara molto dura e rischiosa. Questo è verissimo. Ma Leo, vorrei chiederti una cosa. Aspetta, chiediamo glielo chiediamo dopo, perché intanto parliamo con Silvano Galbusera, che è l'uomo che mette l'ultima mano sulla moto di Valentino, come ben sapete. Lo conosci, no, Galbusera, Turrini? Ma io conoscevo suo zio, quello dei biscotti, quando ero bambino. Ma sono lietissimo di fare i miei complimenti all'erede dei biscotti, che è così bravo a Caldo Valentino. Grazie. Ciao, non Silvano. Penso di avere uno zio così ricco. Ciao Silvano. Roberto. Ciao Roberto. Ciao. Ciao. Senti, io mi faccio testimone, mi faccio ambasciatore di tutti. Perché Vale ci fa tribulare così? È la gomma o è altro, Silvano? Perché arriva così alla linea di partenza la mattina, così indietro? Perché è un gran lavoratore, nel senso, abbiamo perso qualche test invernale perché avevamo preso una strada non perfettamente consona a quello che voleva lui. Siamo tornati indietro, adesso stiamo cercando di recuperare con degli assetti diversi, e lui fino alla fine non si stanca mai di provare cose che potrebbero darci un aiuto. Però i tempi non sempre dicono la verità, nel senso, Valentino ci dice: ma il passo non è male, ho questo problemino, possiamo battagliare. Poi alla fine, dopo il warm up, quando raccogliamo un po' meglio le idee, e lui poi dopo in gara si trasforma e diventa. E la gomma dura, Valentino, che tutti conosciamo, la gomma dura sarà la direzione da seguire, cioè metterà un po' a posto le cose? La gomma nuova che ha portato, almeno per Valentino, darà un aiuto, perché lui comunque dice che il filo in avanti, quando c'è questa gomma che si muove così, per lui non è al 100%, non riesce a fare quello che vorrebbe. Speriamo che la Misden corre in ripari e torni un passettino indietro e ci dia almeno quella alla fine dell'anno scorso. Certo. Senti, se c'è un lato debole di questo Vignales, che pare veramente non averne perché è un martello pazzesco, l'ha capito dove può infastidirlo Valentino, dove può cercare di infilarsi in un suo punto debole, dove mostra i fianchi, o ancora no? Beh, come sempre, c'è sempre un giovane che va più forte di quello precedente, certo. Però Valentino non si è mai sottratto alla battaglia. Io credo che appena siamo perfettamente a posto e lui ha pienamente fiducia nella moto e riesce a fare quello che vorrebbe, secondo me si potrebbe aprire una bella battaglia. Poi dopo, ma quello è sicuro, Silvano, ma secondo te, se c'è un lato dove potrebbe essere battibile ancora Vignales? Non mi sembra di carattere, perché la pressione non la sente. No, in questo momento sembra che sia giovane, ma fino a un certo punto comunque ha quella calma che di solito si ha quando un campione è già fermato, che non ha quella fretta di fare il risultato. Per lui è come se avesse già vinto, ma nello stesso tempo va piano piano a cercare di migliorarsi sempre, di essere veloce, ma non con quella foga del giovane irruento che arriva ogni tanto a fare qualche cavolata. Lui finora non è ancora fatto. Leo, tu ci credi nella decima di Valentino? Sì, assolutamente. Io poi devo dire, questa convinzione è anche perché solo il Milan di Berlusconi è durato più di Valentino Rossi, no? Siamo 31 anni a 21, quindi abbiamo ancora 10 anni di tempo con Valentino, sono molto fiducioso. Però posso fare una domanda al nipote del biscottificio Galbusera? Ma certo, siamo qua apposta. Che non c'entra con Valentino, ma indirettamente forse sì. Se si aspettava che Lorenzo facesse così fatica con la Ducati? No, così tanto no, nel senso, pensavamo fosse un po' più vicino ai primi. Pronto? Sì, sentiamo. Ah, scusa. No, pensavamo fosse più vicino ai primi, magari di essere più competitivo nelle prime due o tre gare che erano normalmente a favore della Ducati, perché si sa che Qatar, Argentina e Austin sono un po' più favorevoli. E invece abbiamo scoperto che effettivamente si è scontrato con una Ducati che non, un po' distante dalla Yamaha, per cui da tutto da intraprendere e speriamo che alla fine ci riesca. Secondo me è un ottimo pilota e ci arriverà. Speriamo. No, nel senso in qualche gara sarà competitivo, nel mondiale non credo, per cui va bene. Ma Silvano, pensa se avesse avuto in mano la Ducati che aveva Valentino. Quel tollone che aveva in mano Valentino. Lì sì, avremmo sorriso, eh? O no, cosa dici? Sì, sarebbe stato ancora peggio. Valentino mi ha raccontato ogni tanto, mi diceva che effettivamente rispetto alle giapponesi è molto più difficile da guidare. Certo. Sono convinto che con Dallini ha fatto dei passi avanti, forse gli manca ancora qualcosina per essere competitivo sempre. Senti Silvano, Austin, il prossimo appuntamento è notoriamente una pista Honda, ma soprattutto Marquez, ma vedendo quanto è competitiva la Yamaha, c'è da sperare in più per le blu là? Sì, perché l'anno scorso noi eravamo competitivi, cioè Valentino era fiducioso, poi dopo abbiamo avuto un problema con la frizione che ha dovuto recuperare e è andato a finire con la caduta. Secondo me ce la possiamo battagliare. Ultimamente, vabbè, si sa che è la pista di Marquez. Però la Yamaha è migliorata molto e anche Valentino era riuscito a interpretarla meglio e secondo me anche Vignales potrebbe far bene. Certo. Grazie Silvano, grazie. Ciao Silvano, grazie. Alla prossima, Silvano Galbusera, il mago e poi, della moto. Ricordiamoci che c'è un campionato nel campionato, quello tra lui e Forcada. Ramon Forcada. E noi siamo tutti per Silvano. Noi siamo tutti per Silvano. Cosa volevi chiedere a Turrini, Roberto? Allora, Leo che me la mena sempre con Belen, io che volevo chiedere a lui invece qualche cosa in più sulla fidanzata di Fernando, che è la ex di Valentino, eh? Ma sei tu qui, perché che devi dire? Lei le vuole solo veloce a questo punto, mi sembra di capire, perché da Valentino è passata Fernando, la famosa Linda Morselli. Bellissima. Sarebbe bello chiederle una comparativa, sì. Adesso io penso che su Linda Morselli, ungaro, avendo lei frequentato Valentino per anni, ne sappia molto di più, hai capito? Poi dopo non voglio cadere, mi state tirando il trappolone, essere veloci, doppi sensi, queste cose. No, voglio parlare della velocità della Gina, qui tra le dune di Sakhir, perché vedete c'è una cosa che potrebbe accadere domani, io me lo auguro con tutto il cuore, finalmente il ritorno in pole position di una Ferrari. Negli ultimi 8 anni la Ferrari, anche quando la guidava l'attuale compagno di Linda Morselli, ha fatto soltanto 5 pole position. E qui passa molto di quella che è la grande speranza iridata della rossa, perché bisogna cercare di riacquistare una competitività piena anche al sabato, anche nelle qualifiche, altrimenti diventa molto difficile battagliare con il nero. Allora, Leo, affondiamo il partito, sentiamo la voce di Ricciardo, che qualcuno dice potrebbe essere la seconda guida ideale per Vettel. C'è un giornale, La Gazzetta dello Sport, che ha scritto che Rosa. Che tu hai già firmato con Ferrari per l'anno prossimo. Mi dispiace, ma non è giusto. Ho sentito 5 minuti qua questo, ma non è giusto. Non è corretto. Sì. Allora, manifesto del partito. Ricky Ricciardo è un gran pilota e mi è anche molto simpatico, però tu fonda il partito. No, volevo dire che siccome da molto tempo c'è il partito anti-Raikkonen, no? Io penso che sia opportuno cominciare, come per i Panda, lanciare viceversa una petizione per confermare Kimi Raikkonen a Maranello anche nel 2018. Ma lo dico pensando a Vettel. Ma scusate, ma siccome si parla di Ricciardo, che hai detto bene, è un ottimo pilota, ma chi ci va da Vettel a dirgli che gli mettiamo accanto in Ferrari lo stesso tizio che in Red Bull nel 2014 lo teneva dietro? E nel momento in cui Seb ancora non ha rinnovato il contratto con il cavallino, cioè ci sono tante dinamiche che devono essere tenute in considerazione, al di là, voglio dire, delle logiche ipotesi di mercato, no? In questo momento io credo, al di là di ogni battuta, che la priorità della Ferrari sia, dimostrando la competitività della macchina, ottenere il sì di Vettel per il rinnovo. Questo no? È evidente. Questo è evidente. Dare un senso di continuità. No, di io andrei avanti con Kimi tutta la vita. Senti, ti chiedo in un minuto secco, che cosa succede domenica, il giorno di Pasqua, cosa troviamo nell'uovo del Bahrain? Dunque, intanto ho dovuto rispondere a un cinese qui che siamo fermi, che mi ha chiesto se è vero che domani nel derby gioca nell'Inter il cinese Gagliardin. Io ho detto sì, sembra che gente abbia annunciato che gioca questo Gagliardin, ma io spero domenica, non che sia una Pasqua di Resurrezione, perché vorrei dire che la Ferrari è già risorta, ma che Vettel vinca, vada sul 2-1, perché allora vorrebbe dire che si torna in Europa dal Gran Premio di Russia alla fine di aprile, con un clima entusiasmante, un'atmosfera positivissima, e soprattutto sarebbe la conferma che la Ferrari, dato che ha portato diversi sviluppi, come peraltro anche la Mercedes, anche nel deserto, ha superato un altro dei suoi problemi cronici, che era la difficoltà nell'aggiornare, nel far evolvere la monoposto. Quindi è una gara molto importante questa tra le due. Grazie Leo! Ci buon sentiamo. Ciao Leo. Buona Pasqua. Buona Pasqua. A Belen. Ciao Linda Morselli. A tutti quanti. Anche ciao, a Giorgio De Luca, il nostro autore. Anche a Gianmarco Ferronato in regia. Edoardo Lavezzani in redazione. Buona Pasqua a tutti. Tra a me, perché domenica io sono qua. Dalle 17 alle 19 in diretta. Tutti convocati. Tra pari sarà anche Turrini, Gran Premio del Bahrain. Sentiremo anche lui. Prossimo appuntamento venerdì prossimo con i motori e con il nostro Racing Team, ve lo ricordo, da Radio City, imperdibile, saremo lì di persona, chiacchiereremo insieme. La radio a vista. La radio a vista. Ciao. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Saluti. Grazie Silvio.